Tutti convocati Magazine di Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, qui per ripercorrere la settimana che era quella della ripresa della Champions League, che era quella di Carnevale, che è quella di Carnevale, che era quella di San Valentino. Era una settimana di grassa, di festa, di baldoria, di chiacchiere magari allegre, però San Valentino, come già tristemente è successo in passato, come già in maniera strana, in maniera incredibile era successo in passato, da 25 anni fa Monzon, a 9 anni fa Marco Pantani, all'altro ieri Oscar Pistorius. This morning and breaking news, the girlfriend of the Paralympian Oscar Pistorius has reportedly been shot dead at his home in Pretoria in South Africa. But reports in South Africa that Oscar Pistorius, blade runner, a huge hero in this country, may have shot his girlfriend at around 4 o'clock this morning, and he has been taken into custody by the police. Olympic sprinter Oscar Pistorius, the man known as the blade runner, has accidentally shot and killed his girlfriend. La zona residenziale in cui vive Oscar Pistorius, dove questa notte alle 4 di mattina, e questa è la casa su due piani di cui ci raccontava Andrea Giannini, che è stato il suo preparatore anche in Italia, alle 4 di mattina ci sono stati degli spari ed è morta la fidanzata Riva, la sudafricana modella con cui faceva coppia da novembre. A sparare sembrerebbe proprio essere quattro stato lo stesso colpi Pistorius. Di, quattro sì. Colpi di pistola nella casa dell'atleta. Inutile dire come questa notizia, che abbiamo insomma ripreso attraverso le breaking news che hanno fatto il giro del mondo istantaneamente, sia stata quella che ha grosso modo cancellato ogni cosa, che ha superato ogni altra emozione di positivo o negativa di questa settimana. Oscar Pistorius è comparso, come sapete, ieri in aula. Il capo di imputazione è il più grave possibile, cioè addirittura omicidio premeditato. Il 19 di questo mese, quindi la settimana prossima, ci sarà l'udienza nella quale i suoi avvocati dovranno chiedere quantomeno il rilascio su cauzione di questa icona dello sport mondiale. I medici a un anno gli hanno amputato il corpo, scrive Manuela Audisio su Repubblica di ieri. Lui a 27 anni si è amputato il futuro, da Blade Runner a Blade Killer. Di Oscar potevi dire tutto tranne che avesse una natura violenta o che si lasciasse andare all'istinto. Al contrario, ti sorprendeva con il sorriso, con la calma, con la mano sulla spalla, pure se la vita con lui era stata carogna, se lo sport spesso gli aveva detto no. Questo è l'incipit dell'articolo di Emanuela Audisio, una che lo conosceva bene, così come lo conosceva molto bene Claudio Arrigoni, che abbiamo sentito e poi risentiremo, così come lo conosce molto bene Gianni Merlo, che sulla Gazzetta scrive: come può Oscar, l'amico che mi aveva trasmesso la sua gioia di vivere, essere diventato un assassino? Questa è la domanda che mi tormenta. La notizia mi è arrivata all'alba e mi era sembrata figlia di un incubo. In quel momento erano quattro spari nel buio del mondo di un Oscar diverso, l'altra faccia della sua luna. E adesso lo sentiremo, Gianni Merlo, in questa chiacchierata che abbiamo fatto con lui. Eravamo con Carlo Coscia, un giornalista che lavorava alla stampa, e siamo andati a cercare un locale dove mangiare e sentire un po' di musica. Ce l'hanno indicato uno, e quello che era impressionante è che tu entravi, c'era il metal detector, e poi i giovani che entravano lì, al guardaroba, invece di lasciare la giacca o il cappotto, lasciavano la pistola, il fucile o altre cose. Cioè, questo ci ha lasciato veramente perplesso, per cui è chiaro che convivi con la violenza e sai che devi reagire improvvisamente, ti abitui ad essere una macchina che deve saper reagire subito a una provocazione, ma in questo caso non c'era provocazione. Un intruso in casa, può darsi, io ho visto la sua casa quando lui stava costruendo, la camera da letto al secondo piano, ma lui aveva anche, se non sbaglio, due cani in casa, quindi i cani potevano conoscere la ragazza che entra furtivamente, ma i cani, quando si accorgono che anche c'è una persona amica, almeno un po' di rumore lo fanno. Quindi è tutto da verificare se è stato un attimo di ira. Io l'ho conosciuto come un ragazzo che era amabilissimo, cioè, e grazie a lui, diciamo, dopo che l'ho presentato a Cannavò, e Cannavò se n'è innamorato e ha lanciato la grande crociata per dare la possibilità anche agli atleti cosiddetti disabili di correre con quelli normali, è stata secondo me una crociata importante, che lui alla fine ha vinto, ma chiaramente nessuno di noi poteva pensare che poi in un momento di rabbia qualcuno adesso sussurra che possa essere un moderno Otello, no? Sia diventato un moderno Otello. Può essere di tutto, ce lo può spiegare solo lui, perché la polizia ancora non ha chiarito molte circostanze, dove ha trovato il corpo, come l'ha trovato, in quale punto della stanza, perché è solo a quel punto che si potrà avere un'immagine. È chiaro che lui si è autodistrutto. È chiaro che è finita per Oscar Pistorius, cioè l'uomo, il mito dell'uomo giaguaro finisce in un'aula di tribunale di Pretoria. Certo. Cioè, penso proprio di sì, perché purtroppo quello che mi impressiona in lui è che, essendo anche una persona sensibile, talvolta magari che può reagire in modo smodato a certe provocazioni della vita, vederlo chiuso in cella dopo che lui è riuscito a vincere una grande crociata mondiale, e il fatto di essere diventato un atleta mondiale, perché se ne parla sulle prime pagine dei giornali, dove magari neanche Bolt e Messi sarebbero andati, no? Cioè, è a livello di questi campioni, certo. pur avendo le gambe amputate, quindi ha superato certi limiti, e magari questa coscienza di essere andato oltre questi limiti, chissà che non lo deprima, lo mandi in una depressione terribile, perché conoscendolo questa volta può andare in una depressione terribile. Gianni, io ti ringrazio di questa testimonianza, che onestamente metti brividi a me, ma credo li metta anche ai nostri ascoltatori, quindi è chiaro che il pensiero va a quella ragazza di 30 anni, meravigliosa, che è stata ammazzata, però insomma Oscar Pistorius è stato, come ricordavi tu, un mito globale. E la sua fine è devastante, non quanto quella vita spezzata, però è devastante per tutti quelli che amano lo sport. Certo, no, è qualcosa che non ti aspetti. Diciamo che è stato come il meteorite caduto ieri sugli Urali della Russia, che nessuno si aspetta. È qualcosa che ti dà un brivido, perché dici praticamente... Lì siamo completamente indifesi, ognuno di noi è indifeso di fronte a certi fatti della vita. E di fronte alla sua fragilità. Gianni Merlo, grazie. Prego, alla prossima. Grazie a voi. Tutti convocati Magazine. Olympic sprinter Oscar Pistorius, the man known as the Blade Runner, has accidentally shot and killed his girlfriend. Se volete poi parliamo, anzi certamente parliamo d'altro e sentiamo anche i vostri commenti della settimana, ma questa vicenda è stata troppo enorme, come si diceva prima con Gianni Merlo, per non tornarci e per non riparlarne. L'abbiamo fatto in settimana anche con anche qui il massimo esperto di sport paralimpici italiani, cioè il nostro amico Claudio Arrigoni, tra l'altro un altro giornalista, un altro collega che conosce Oscar Pistorius fin da quando, racconta lui, aveva 17 anni e i brufoli. Adesso sentiamo cosa ha detto. No, non te l'aspetti, perché l'immagine di Pistorius è l'immagine di un ragazzo che sorride, e che sorride anche alle avversità della vita. Come tutti i ragazzi, però, poi quando magari scavi un po' e lo conosci un po' meglio, come tutti i ragazzi non è un supereroe. Sì. Oscar è una persona che ha i suoi momenti bellissimi e straordinari, e sono quelli che conosciamo tutti, e ha i suoi momenti di cadute anche qualche volta, su cui forse colpevolmente anche noi abbiamo sorvolato, noi dico magari o che lo conoscevamo o che comunque ne abbiamo scritto e parlato nei mesi scorsi. Qualche cosa era già capitata, poi magari spiegabile, no? Ma qualche lite con altri che magari erano vicini alla sua fidanzata, qualche denuncia c'è stata in passato di qualche, ma questa è cosa nota, non sto dicendo cose che non sono note, di qualche ragazza che aveva subito qualche molestia da lui, e poi ritrattate, poi spiegate, non si capiscono mai naturalmente poi tutto questo. E quel che è vero è che qualche eccesso ce l'aveva, lui amava correre in macchina, amava correre in auto, qualche volta magari in qualche festa si lasciava un po' andare, ecco, diciamo così, ma sai, sono cose che capitano a ragazzi come lui, ragazzi di 20 anni e poco più, e quindi magari uno poi non si aspetta questo. Certo, rileggendolo, rivedendo questo, questi fatti passati con quello che è successo oggi, qualche pensiero ti viene. Credo che bisogna, non sia il momento poi di giudicare. Questo era Claudio Arrigoni. Allora, un'altra voce ben nota dell'atletica, oltre che del calcio, voce televisiva, è il nostro amico Nicola Roggero. Ciao Nicola. Ciao Carlo, intanto un piacere di sentire Claudio, che è stato anche mio direttore ai tempi di Telepiù ed è stato anche un grandissimo direttore della Rai TV. E hai sentito cosa ha detto, immagino. Vorrei riprendere con te da questo punto. Allora, innanzitutto il tuo rapporto personale con Pistorius, qual è stato? Io, guarda, ho conosciuto Pistorius a Torino prima di un meeting in questa città. Quando? Era il 2009, se non ricordo male, potrei sbagliarmi di un anno, non più, diciamo 3-4 anni fa. Era già un atleta noto, soprattutto per quanto faceva alle Paralimpiadi, ma erano i primi tempi in cui Oscar cominciava a gareggiare con gli atleti cosiddetti normodotati. Io lo incontrai alla conferenza stampa della vigilia del meeting. Chiese di intervistarlo, ricordo che lui fu gentilissimo, perché c'era poca luce nel posto dove si stava svolgendo la conferenza, quindi l'operatore mi chiese se era possibile fare l'intervista fuori. Lui prese l' ascensore, salimmo, andammo fuori in piazza Carlo Felice, che quella è esattamente davanti alla stazione di Torino, e facemmo l'intervista fuori, quindi questo per dire della grande disponibilità di questo ragazzo. E poi niente, poi ne ho osservato ovviamente la carriera, ne ho osservato soprattutto la grande battaglia che lui ha fatto per poter gareggiare anche nelle grandi competizioni come mondiali, olimpiadi, quindi erano buttati, e la notizia di ieri francamente mi ha scioccato tutto, perché c'è purtroppo una vita che è stata cancellata, quella della fidanzata. Arriva, sì. E poi c'è un'altra vita, la sua, che è stata rovinata sicuramente. Certo, è stata devastata, però hai sentito prima cosa diceva Claudio Arrigoni? C'è quel sorriso, quell'apertura al mondo anche dei media, quell'apertura al mondo dei bambini. Adesso non voglio fare dell'elegia, non voglio fare della demagogia soprattutto, però che stride con una fragilità che si era già manifestata, come raccontava Claudio, e che si era manifestata in episodi che non, insomma, che erano noti, che non sono stati nascosti da nessuno, o forse che non sono stati abbastanza sottolineati. Ma sai, è difficile leggere, io credo, dentro la mente umana, credo che sia la cosa più difficile del mondo, e non a caso bisogna fare degli studi molto approfonditi per riuscire a trovare qualche traccia dei nostri pensieri. Forse dentro ognuno di noi c'è un dottor Jekyll e c'è un Mr. Hyde. Quante volte si sente raccontare che una persona che ha commesso dei fatti gravissimi era in realtà una persona per bene, o comunque che si era sempre illustrata per delle azioni buone, insomma, per delle azioni positive. E così come a volte si scopre che una persona che ha sbagliato a lungo nella propria vita poi riesce in qualche modo a riscattarla, non lo so, si entra in un campo obiettivamente complicato. Claudio parlava di eccessi, di l'amore per le autoveloci, per le barche, qualche problema in passato anche con delle ragazze per molestie. Certo, poi da qui però a pensare che uno possa combinare quello che è successo l'altra notte, ce ne corre. Io no, è ovvio. lì francamente non riesco a spingermi e a dare delle spiegazioni. No, però Nicola, tu da profondo conoscitore dell'atletica sai perfettamente che chi ha a che fare con non è una legge comune che chi ha a che fare con il cronometro, con la velocità estrema, con i limiti del proprio fisico, gli sprinter, quelli che vivono sul filo del rasoio, hanno spesso dimostrato un carattere molto fragile. Ma più con carattere fragile è grande adrenalina. Grande adrenalina, sì. È grande di concentrazione, appunto si vive sui millesimi. Però credo che se andessimo a prendere i vari fenomeni dello sprint, scopriamo tipi di ogni carattere. Faccio l'esempio, Bolt è l'esempio della tranquillità, della serenità, un ragazzo che riesce a scherzare fin quando arriva sui blocchi di partenza, vince la sua gara e esattamente dopo aver vinto la sua gara torna a scherzare come aveva fatto fino a tre minuti prima. Borzov era un atleta di ghiaccio che non si riusciva quasi a capire se provasse emozione o meno e ragionevolmente non la provava. Lewis e Ben Jones hanno subito una grande rivalità basata su due caratteri molto diversi uno dall'altro, quindi credo che sia difficile pensare che ci possa essere una correlazione tra l'attività che si fa o che si è fatto per un certo periodo e poi quello che è il tuo carattere, anche perché episodi simili sono avvenuti in altri campi, in altri sport e purtroppo avvengono in ogni città della vita. Credo che anche tra i tipografi, i panettieri, i tabaccai e probabilmente anche i giornalisti ci siano casi come quello di Pistorius. Sì, è chiaro che non dimenticheremo mai quelle immagini, no? Cioè, di quel cappuccio grigio abbassato, anche qui non voglio fare della demagogia, però è un fatto che ha colpito tutti, no? Che ha colpito tutti nel mondo. Quel cappuccio grigio abbassato sulla testa di un'icona dello sport mondiale, un'icona dello sport mondiale che comunque vada, Nicole, penso che anche su questo possiamo essere tutti d'accordo, si rompe in un'aula di tribunale, si rompe in una pubblicità che oggi suona quasi come tragicamente ironica, quella della Nike, del suo sponsor tecnico, I'm a bullet in the chamber. È tremendo, ci sono delle immagini che hanno una forza allucinante, per stare all'atletica rimane un poster di una generazione, ma direi di un secolo, l'immagine di Tommy Smith e John Carlos. Invece dei fatti tragici, O.J. Simpson, mito del football americano e mito poi anche buonissimo attore cinematografico che viene arrestato per l'omicidio della moglie e dell'amante della moglie, verrà poi scagionato, verrà assolto in tribunale, ma con una sentenza che lascerà sempre molto molto perplessi. Un campione dello sport quando finisce all'agonia ha un'immagine sicuramente molto contrastante rispetto alla sua attività, perché lo sport è gioia, lo sport è divertimento, è passione, da gioia a tantissima gente, e quando poi si scopre l'eroe fragile, allora lo shock è maggiore. Per stare l'ultimo caso, quello di Lance Armstrong, sì. Beh, è un'altra immagine di un atleta mito per quanto ha fatto in sella e soprattutto per quanto ha fatto nella vita, la vita sua e la vita di tante altre persone che comunque da Armstrong sono state aiutate. Ecco, se si può leggere un attenuante in quello che ha combinato Armstrong, si può dire che in quel caso il doping è servito a creare una fondazione che comunque raccoglie credo 15 o 20 milioni di dollari all'anno e sono sicuramente soldi spesi bene, visto che curano delle persone che hanno dei problemi terribili. Sì. Certo. Poi leggi però i rapporti, certo. I racconti dell'Operation Puerto e di quello che sta succedendo nelle aule spagnole e vabbè, allora ti viene voglia di mettere giù il microfono, la penna, la cuffia e di andare a casa, per chi fa il nostro mestiere. Sì, sull'Operation Puerto, fra l'altro, c'è qualcosa che non mi torna, nel senso che vedo solo dei ciclisti, sì. E questo non mi va bene, non perché non sia da punire i ciclisti che hanno sbagliato, ci mancherebbe altro, è che semplicemente ci sono quelle 70 sacche di sangue mai identificate, altre in giro conservate male dalla Guardia Civile a temperature che probabilmente hanno distrutto i globuli rossi. Fuentes ha parlato chiaro, ha fatto i nomi di tennisti, i calciatori, e devono essere tennisti e calciatori di grande livello. Non vedo né la federazione tennis internazionale, né l'UEFA, né il CONI spagnolo, curioso di sapere cosa c'è in quelle sacche e soprattutto a chi corrispondono. Certo. Certo, questo è perfettamente comprensibile. Poi salta fuori il povero Manzano cui iniettavano di tutto, e allora sempre di ciclisti si tratta, però i nomi sono altri e sono molto noti. Nicola, io ti ringrazio. Grazie a voi. Un abbraccio, alla prossima. Tutti convocati Magazine. San Valentino, maledetto giorno di San Valentino, maledetto 14 di febbraio, abbiamo raccontato, abbiamo rivissuto la storia di Oscar Pistorius. Mi piacerebbe dirvi che adesso andiamo su temi più giocosi, e lo faremo naturalmente, però in quel benedetto 14 febbraio c'è stato anche un gravissimo infortunio ad un giocatore dell'Inter, ma un giocatore, mi viene voglia di dire, trasversale, un giocatore che era impossibile ed è impossibile odiare, è impossibile non ammirare, anche se porti al collo la sciarpa che hanno colori diversi da quelli nerazzurri. La carriera di Diego Milito è finita la sera del 14 febbraio, dopo sei minuti di quella partita con il Vittoria Pilsen in Europa League, non con il Vittoria Pilsen con cui ha perso il Napoli naturalmente, ma con il Cluj in Europa League. Tutti quanti speriamo di no, ma la diagnosi è impietosa, perché quel ginocchio sinistro adesso è davvero malconcio. Si è fatto male, ma molto male al ginocchio, sì. Attenzione, mamma mia, l'appoggio, mamma mia. Come ha girato, brutto, sì, brutto, si è visto brutto, chiaramente brutto, il ginocchio brutto, sinistro. Questo è grave, grave, grave, grave. Si è visto proprio la posizione innaturale dopo 6 minuti e 32 da parte di Milito, che si era accanito su questo pallone. Il grande intervento di Piccolo, e qui si chiede il cambio. Si chiede il cambio, sta per arrivare il momento di Palacio. Come vedi sono qua, monta su. Non ci avranno finché questo cuore non creperà. Vecchio blues da fare insieme in qualche posto accosterò. Ma è proprio un grandissimo dispiacere nei suoi confronti, per l'entusiasmo che aveva in questo momento qui, la forma che aveva ritrovato, la professionalità proprio che lui usava con il piacere anche di, e quindi questa sberla di ieri è stata spaventosa. Urlando contro il cielo, come sapete, la canzone di Ligabue che si alza al cielo di San Siro quando segna l'Inter, tante volte l'ha fatta risuonare Diego Milito. In questo caso si tratta di un urlo molto diverso, e anche qui perdonatemi la retorica, però adesso, giusto per uscire da questo cono d'ombra, io vorrei riascoltare voi che siete stati bravissimi in settimana. Come sapete, il lunedì è il giorno delle dichiarazioni dei protagonisti e componiamo un podio, no? Il sabato è il vostro giorno e allora noi componiamo, grazie anche a Franco Piantanida, autore di questo programma, oltre che a Roberto Scaltritti che è sempre in regia con noi, componiamo anche il podio dei vostri interventi settimanali. Allora, terzo gradino, chi c'è? Giorgio da Pisa, buongiorno. Sì, ciao Carlo. Ciao Giorgio. Ciao. Sono fiorentino, ma secondo me stasera Juventus 2 Celtic 0. Juventus 2 Celtic 0. Bonucci, Pirlo. Ah, proprio secco così, perché Bonucci, sì, perché addirittura Bonucci. Hanno giocato benissimo contro di noi, sono in forma smagliante, secondo me hanno perso un po' di occasioni, guarda, a gennaio. Io ti dico che insomma non mi sorprende che la Juventus, l'ho detto in apertura, che la Juventus sia, esatto, progressivamente tornata, semmai era sparita come dicevo nell'angolo di una condizione fisica, esatto, difficile e programmata proprio per questo momento, come sì, i grandi sprinter programmano. Come? Già sabato andavano a mille, andavano già fortissimo. Già nelle ultime due partite, non soltanto sabato, facciamo tre, li ho visti in progressiva crescita dal punto di vista fisico. E sono viola, quindi sono obiettivo, diciamo. E sono viola e quindi sono obiettivo, dice l'ascoltatore. Allora, secondo gradino del podio per voi questa settimana. Simone, provincia di Macerata, buongiorno. Buongiorno a te, mitico Carlo. Mitico Simone. Eccoci qua, niente, io sono un bianco-nero, chiaramente. C'è la Z. Io no, però anche se me lo scrivono, visti i precedenti, noi in Europa se non si soffre qui non si va mai avanti, quindi sparo un 2-2, mi auguro. Beh, 2-2, 2-2 è risultato non male. Ottimo, magari, anche perché c'ho un collega scozzese malato del Celtic, che se poco poco vince il Celtic, io se tutto va bene me devo licenziare, quindi non gli si fa più, già è una settimana che mi sta a scannare, quindi proprio è malato, è già pronto lui a Celtic Park. Sai, in ogni caso, sai, lui la penserà. Lui da Simone, scusami, sì. Ma lui dalla sua parte la penserà un po' come te. Io, I have a colleague that is here from Juventus, and tomorrow if I lose the match, I don't go to work. Sarà la stessa cosa, no? Sì, ci sta, via, per carità, assolutamente. Io poi rispetto, non glielo dirò mai. Grande rispetto per i tifosi del Celtic. Ma a lui, sì. Tutti meno che a lui. Tutti meno che a lui, non ci ha beccato nessuno con il pronostico. Andiamo sul primo gradino e poi chi ci aspetta mi perdonerà l'inglese improvvisato. Primo gradino del podio degli ascoltatori della settimana. Samuele, Milano. E se Saltelli, sei a Balotelli, e se Saltelli, sei a Balotelli. Grazie della convocazione, mister. Grazie a te, Samuele, grazie a te. Sai anche l'altro corno? No, l'altro lasciamolo stare, va. Ascolta, ti chiamavo per dirti una cosa che è successa in Inghilterra, ma se l'è detto solo un trafiletto. Sì. Io faccio parte di un gruppo organizzato da Curva Sud a Milano. Sì. E da tempo si parla delle trasferte delle società che pagano, mica pagano le trasferte dei tifosi. E in Inghilterra c'è stata la proposta di legalizzare i soldi delle società per le trasferte dei tifosi per evitare dei malinconici buchi sugli stadi. Mi riferisco a una partita che ha giocato il Liverpool a Stamford Bridge. Volevo sapere cosa ne pensavi, se era sbagliato secondo te che una squadra potesse dare 50 euro per fare una trasferta, arrivare a Palermo ed essere colorati, ed essere giustificati, ed essere turistici, perché effettivamente 1200 chilometri per chi fa come me il magazziniere, il trasportatore, diventa un problema, perché poi c'è il problema, sono tante. Mica perché dovremmo essere in combutta con la società o in connubio con la società o ricattare la società, però se la passione è tanta, il tifo ti esplode dentro come una bomba, penso che non ci sia nulla di male. Esplode dentro come una bomba. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao, ti ho visto l'altro ieri, buongiorno. Ascolta, io per una volta non capita mai, però non sono d'accordo con te su una cosa, una questione estetica. Io quelle magliette, quelle t-shirt dei Golden State Warriors non le voglio proprio vedere. Dipende, stilisticamente, cioè anche io, come detto in un articolo, quando allenavo il Cile mettevo quelle t-shirt rossi, ok, con le lettere bianche, erano belle. Ci sono anche diverse squadre, Maccabi Tel Aviv, le messe eccetera, quindi non fa parte del folklore, ok? Io quando sono in Italia non ho mai avuto la t-shirt per le magliette della squadra, sempre canottiere, okay? Sì, e mi piacciono così. Yeah, siamo tradizionalisti noi, anche io preferisco, però tu hai notato, Carlo, che si allargano le spalle del canottiere sempre, che okay? Sono quasi t-shirt, okay? Una volta erano larghi, non so, 3 centimetri, poi 5, poi 6, poi 8, quindi non c'è mai una... Non c'è mai una misura standard e si allungano anche i pantaloncini, che una volta erano... Basta guardare le fotografie di Meneghin, D'Antoni, di Premier, adesso guardi Marcus Green e gli arrivano alle caviglie. Esatto, infatti io sono... Non ho niente da dire sui t-shirt, ma i pantaloni lunghi avrei qualcosa da dire, sono come te, capito? Quindi c'è... I pantaloncini sono pantaloncini, non sono bermude, poche parole, ok? Quindi tutto questo. Secondo bagate, siamo appena scesi da Trino a Firenze, abbiamo meno dei 10 minuti a prendere il corpo Siena. E bagate sembra Usain Bolt davanti a me, adesso che mi ha piantato qui in asso. e sto parlando con voi. Comunque, io sono d'accordo, a me non ho niente sul t-shirt, anche se io preferisco, perché guardate, mi fa il numero 4 per dire che abbiamo 4 minuti. Sì. Sto più veloce di così la mia età non posso andare, però adesso raggiungo bagata e io sono d'accordo, io preferisco i pantaloni giusti, ok, perché secondo me anche quelli lì sono da playground, ok, sono dei Bermuda che portano, da playground, preferisco di no, questo è il mio sì. parere. Senti, ti lascio rincorrere Guido Bagatta perché mi sembra il caso, coach, ci sentiamo venerdì. Bagatta è troppo veloce. È troppo... Ah, ok, ciao bambini, amici sportivi, ciao a tutti. Grazie a coach Dan Peterson, tra l'altro Bagatta... Guido Bagatta, che ben conoscete, autore di una notizia, di una butad o di una così, comunque di una suggestione che ieri abbiamo ripreso, e cioè prossima stagione a Milano, Gherardini general manager, D'Antoni allenatore. C'è stato un ascoltatore che ci ha twittato, non ci credo, e ha scritto non ci credo neanche se lo confermano a tutti i convocati. Non siamo in grado di confermarvelo. Mike D'Antoni andrà come andrà, però a 4 anni di contratto con i Los Angeles Lakers, sarebbe bello, sarebbe suggestivo, i tifosi di Milano farebbero la ola per tutta la città, ma mi sembra un po' difficile. Adesso però io vorrei tornare anche qui in un palleggio tra la settimana del calcio e quella del basket e ciò che verrà del basket nel weekend. C'è lo Star Game, c'è la conclusione delle trade del mercato NBA, fino adesso non si è mosso una foglia, però anche ieri Flavio Tranquillo ci diceva che bisogna aspettare l'ultimo istante, come quel famoso lancio del contratto attraverso la porta, contratto guarda caso dello sfortunatissimo Diego Milito. Che vi stavo dicendo, palleggio tra calcio e basket. Allora torniamo a Glasgow. In materia di pronostici, l'altro giorno ve li ho chiesti, non li ha indovinati nessuno. Noi abbiamo avuto, come sapete, un inviato, un corrispondente d'eccezione, cioè un olimpionico della scherma, come il nostro amico Federico Confalonieri. Diego, scusate, non Federico Confalonieri, è un'altra cosa. Diego Confalonieri. Allora abbiamo sentito prima l'abbiamo sentito prima della partita e l'abbiamo sentito anche dopo. Prima parlava così. I'm on my way to Glasgow. Glasgow is the place where my lover was born. Thought I'd have a laugh there. Io torno a Glasgow con un altro inviato speciale, nostro amico, un campione di altri sport, spadista azzurro, ora squadra Pechino 2008, lo ricordo ma lo conoscete, Diego Confalonieri, malato di bianconero. Ciao Diego. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao. Com'è l'atmosfera? Ti stai divertendo? L'atmosfera si taglia la tensione, qui la situazione è molto molto calda. In che dico senso? Solo che il Papa ormai è in seconda pagina, in prima pagina solo 7 Juve. Ah sì? Sì, ormai qua il centro è pieno di tifosi juventini che sono arrivati a fargli essere oggi, quindi tutti pronti. Però tutto tranquillo? Tutto tranquillissimo, sì, tutto tranquillissimo. Per adesso speriamo fino a domani tutto tranquillo. Dove sei adesso? Io sono in un pub a bere la prima birra della giornata. Sì. E insieme a tifosi juventini e tifosi del Sesti. Mischiati. Siamo pronti per qualcosa e poi verso le 6 andiamo allo stadio. Verso le 6 tutti allo stadio. Matri Vucinic, copia corretta? Matri Vucinic in questo momento copia corretta, sì. Poi leggevo anche stamattina sui giornali che Conte vuole far giocare anche Peluso sulla sinistra per dare un po' anche di altezza e fisico alla squadra, quindi Matri Peluso, Fossi, Giovinco e Giacchini, direi scelta ideale. Diego, buon divertimento, pronostico? Io pronostico 2-1 per la Juventus, però male che vado a giocarmi il 2-1 per i Stessi, che magari vinco qualcosa. questa è una scelta da furbo. Diego, ci sentiamo domani dopo la partita e vediamo se hai vinto da una parte o se hai vinto dall'altra. Grazie. Tutti convocati Magazine. Allora, tanto per chiudere il discorso con Glasgow, avete sentito la vigilia di Diego Confalonieri, olimpionico di Scherme, nostro corrispondente d'eccezione. Ovviamente l'abbiamo sentito anche il giorno dopo. Ha detto 2-1 per la Juve, però mi gioco anche il 2-1 per il Celtic, così non mi sbaglio, Matri Vucinic, sì, coppia d'attacco che va bene. Era così, oltre ogni aspettativa, Diego Confalonieri, 2. Diego Confalonieri, ci sei? Sì, ci sono, ciao ragazzi, buongiorno. Ti vedevo ancora alle prese con i pub? Non ti sentivo? Ho detto, sarà ancora al pub? No. Ieri abbiamo festeggiato con altri tifosi da Juventus, però insomma tutto bene. Siamo all'aeroporto, pronti per tornare a casa. Pronti per tornare a casa, felicissimi. Una grande partita, sì. Un grande stadio, un grande spettacolo. Da sportivo ti chiedo, io ho detto in apertura, la Juventus è arrivata prontissima di gambe e di testa a questa partita che aveva nel mirino da tempo. Hai avuto questa impressione anche tu dal Celtic Park? Sì, devo essere sincero, da sportivo devo dire che è stato uno spettacolo incredibile. Noi un'ora prima della partita eravamo a bere una birra con tutti i tifosi del Celtic in un loro pub, si scherzava, si rideva, poi alla fine della partita è incredibile, tutti a battere le mani, noi a loro, loro a noi, e c'è stato uno scambio di sciarpe con dei bambini, delle mamme, una cosa che da noi veramente lontana anni luce, per cui uno spettacolo incredibile, lo stadio molto bello, molto caloroso, e una partita molto molto sofferta. Molto molto sofferta per te che sei tifoso, perché in vantaggio 4 minuti. Penso che la Juve abbia trovato una squadra che l'abbia messa sotto dal punto di vista fisico e della foga agonistica, è difficile della Juventus chiusa nella propria metà campo per almeno 80 minuti. La Juve ha dovuto soltanto aspettare il momento giusto per colpire. Diciamo la verità, il Celtic è una squadra molto fisica, ma tatticamente, tecnicamente molto molto, lascia molto desiderare. Fisicamente come l'hai vista la Juve, Diego? L'ho vista molto bene, ieri secondo me la difesa è tenuta benissimo, il centrocampo ha fatto un po' di fatica perché doveva più coprire che impostare, e devo essere sincero, ieri il migliore in campo è stato Martin Casas, che spesso tutti non... di cui molti non parlano bene, ma secondo me ieri ha fatto una partitona, veramente partitona, e quindi Juve insomma ha fatto bene il conto a mettere Peluso e a mettere Matri a posto di Giovinco e Giacchino a sinistra per avere più fisicità, sì. E quindi secondo me tutto è azzeccato, tutto è nato come doveva andare. Sono d'accordo, grazie Diego, buon viaggio di ritorno e a presto. Grazie a voi, a prestissimo. Ciao. Un abbraccio, Diego Confalonieri, olimpionico di Scherma, come ben sapete, e malato di Juventus, come sapete altrettanto bene. Crossover, secondo le migliori tradizioni, basket, calcio, basket, America. Simone Sandri da New York, ciao Simone. Ciao, buon pomeriggio, ciao Carlo. All-Star Weekend, però vorrei partire con te dall'argomento da cui siamo partiti in questa trasmissione e dall'argomento che ha insomma, coperto con un velo questa settimana di Carnevale San Valentino. Pistorius in America, come è stato vissuto? È stato vissuto come per certi versi come l'ennesima caduta degli dèi di questo anno e mezzo veramente incredibile, nella quale ci sono state ovviamente fare paragoni tra quello che è successo a Lance Armstrong ad Alex Rodriguez, uno dei grandissimi del baseball, rispetto alla tragedia vera di Norris, è assolutamente impossibile, però è una sorta di filo conduttore, c'è di questi dèi che veramente cadono, perché ha avuto un impatto incredibile anche ovviamente negli Stati Uniti. Basti pensare che tutti i giornali del New York Times, perfino il Wall Street, guardavo il Wall Street Journal ieri e oggi, in prima pagina c'è questo dramma in Sudafrica, Sports Center, la trasmissione bandiera degli ESPN, ha aperto con notizie di Pistorius, per cui sicuramente un impatto mediatico pazzesco, come è normale che sia, dato che Pistorius è un'icona mondiale, non è un personaggio inventato da noi, insomma, Simone. Certo, poi ha avuto veramente un impatto nell'immaginario totale, nell'immaginario generale, che uno dei protagonisti che trascende proprio lo sport, ovviamente per tantissimi motivi. Qui ci sono stati, durante poi le Olimpiadi, ci sono stati una serie di servizi su lui, ovviamente è stato veramente uno dei personaggi principali, per cui è ovviamente una cosa che ha avuto un impatto mediatico molto molto grande. Simone, per passare ad altri argomenti, è finita la festa a Baltimora o vanno avanti dopo 2 settimane? No, guarda, Per adesso è finita. Per adesso è finita? Adesso è finita, adesso devo ricominciare a lavorare, perché se pensiamo che dopo una settimana si discuteva già del contratto di Flacco, il protagonista del Super Bowl che ha vinto l'MVP, e addirittura i tifosi dei Ravens stanno cercando di far cambiare idea a Ray Lewis, che ha annunciato il ritiro, per cui pensano già, hanno festeggiato molto per almeno una settimana, poi hanno già incominciato a pensare al futuro, per cui è una delle proprio cose classiche delle squadre di football americano, che pensano festeggiano una settimana, poi si pensa già alla stagione successiva. Sì. Per avvicinarci al basket, prima citavo un gossip, un tweet di Guido Bagatta, che ha profetizzato l'arrivo a Milano di Gherardini general manager ed Antoni allenatore la stagione prossima. Difficile, duretta. Mi sembra un po' effettivamente un po' fantabasket, anche però tutto può succedere. Sicuramente D'Antoni sta vivendo uno dei periodi più difficili della sua carriera. Perché quello che sta succedendo a Los Angeles non è molto complesso ed è anche di difficile soluzione. Detto questo, non vedo così scontata sul suo licenziamento a fine campionato, perché è vero che lui è arrivato, comunque dobbiamo considerare che D'Antoni è arrivato su un treno in corsa che stava deragliando già all'inizio della stagione, forse sicuramente ha delle colpe su quello che sta succedendo, ha avuto una serie di infortuni, ha avuto a che fare con giocatori che non gli stanno dando quanto lui sperava. Prima fra tutti ovviamente Dwight Howard, ci sono tanti alibi, e non sono così convinto che la dirigenza di Los Angeles sia decisa a buttare tutto a mare e a ricominciare. Consideriamo anche che i Lakers stanno pagando Brown, e se licenziassero D'Antoni dovrebbero pagare altri 2 anni di contratto ad Antoni per non lavorare, in più dovrebbero cercare un terzo allenatore che non difficilmente può essere Phil Jackson, perché dopo quello che è successo quest'autunno non credo che Phil Jackson possa poi ritornare sulla panchina di Los Angeles, per cui io non vedo così scontato il licenziamento di D'Antoni a fine stagione, sinceramente. Sì, e poi come tu mi insegni, la stagione vera inizia dopo domenica notte italiana, quando ci sarà questo All-Star Game, da cui Danilo Gallinari, per noi è stato inspiegabilmente escluso, poi non so, ognuno la interpreti come vuole. Fatto sta che tradizionalmente il weekend dello Star Game, che coincide con quello della chiusura delle trade, per ora non si muove foglia, ma aspettiamo l'ultimo istante, allora da lì in poi si comincerà a fare sul serio, si stringeranno le viti, no? Assolutamente, devo dire che per come stanno giocando, soprattutto per l'atteggiamento che hanno i giocatori di Los Angeles dei Lakers, non sono proprio grandissime aspettative per questa seconda parte di regular season. Hai ragione su tutta la linea, per quanto riguarda che le partite che contano iniziano adesso, dopo lo Star Game. Devo anche dire che per quanto riguarda la convocazione invece di Danilo Gallinari, sì, possiamo dire che se guardata oggi può essere uno scandalo, tra virgolette. Guardata tre settimane e mezzo fa, quando comunque ci sono state le convocazioni e quando per le riserve, e quando la situazione della classifica dei Nuggets era diversa rispetto adesso, e comunque anche i numeri di Danilo erano un pochino diversi, perché lui dall'inizio dell'anno ha veramente cambiato marcia, sta giocando forse il miglior basket della sua carriera, se non il miglior basket della sua carriera, un basket straordinario. La sfortuna forse secondo me di Danilo è stata proprio quella che sia i Nuggets hanno cambiato marcia a cavallo tra la fine dell'anno e l'inizio di gennaio, lui stesso ha cambiato marcia. Purtroppo le convocazioni, se fossero state fatte oggi o ieri o una settimana fa, non c'è nessun dubbio che, secondo me almeno, che Danilo sarebbe stato convocato al posto di Aldridge allo Star Game. Purtroppo tre settimane e mezzo fa la situazione è un pochino diversa. Sì. Simone, ti ringrazio, buono Star Weekend. Grazie a te. E ci sentiamo alla prossima con Simone Sandri dagli States. Dunque, noi adesso chiudiamo, ma non dopo avervi ricordato, o non prima di avervi ricordato, l'appuntamento con il duo Gattuso Ferrentino con Dai e Vai domani 16:30, 19, poi 22:23. Noi ci sentiamo con tutti i convocati, e sarete veramente tutti convocati lunedì alle 14, e allora vi aspetto lì insieme a Franco Piantanida, autore di questo programma, e a Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti.